Incontri di Gianfranco Fabi. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and windowsills, tables and chairs worn by all of the dust. Con le note di questa canzone della Cinematic Orchestra, To Build a Home, iniziamo l'incontro di oggi e direi che la musica è la più adatta, l'ha scelta lui stesso per introdurre l'incontro con Gianluca Sghedoni. Buongiorno Sghedoni. Buongiorno a lei. E buona domenica. E buona domenica. Perfetto. A tutti gli ascoltatori. Gianluca Sghedoni, To Build a Home. Perché? Perché questa canzone? E allora svegliamo che cosa fa, qual è la sua professione. Noi siamo un'azienda che si occupa di edilizia verde, quindi ci occupiamo di tutto quello che riguarda le problematiche all'interno degli edifici in termini di inquinamento indoor, in termini di costruire verde, in termini di attenzione all'ambiente e non da ultimo risparmio energetico. Ecco, l'azienda è la Keracol, ha più di 50 anni di attività, ha 345 milioni di euro di fatturato nel 2009, 40% all'estero, oltre 1000 collaboratori, 10 stabilimenti, 12 società operative. Gianluca Sghedoni è amministratore delegato della seconda generazione, l'azienda l'ha fondata suo padre. Esattamente. E come mai ha fondato questa azienda e come lei l'ha trovata e cosa ha fatto per farla crescere? Ma l'azienda è stata fondata negli anni 60 a Sassuolo, nel cuore del comprensorio ceramico italiano e mondiale. Di conseguenza mio padre a suo tempo così ebbe l'intuizione di capire che il prodotto ceramico poteva avere degli sviluppi, ovviamente non quelli che poi ha avuto, perché nessuno allora si immaginava un tale sviluppo, ma ebbe subito un'idea molto, molto chiara, molto precisa, cioè qui a Sassuolo tutti si buttavano a fare ceramica, lui disse non voglio essere uno dei tanti, ma voglio essere uno dei pochi, dei primi in un settore non direttamente ceramico ma direttamente collegato ad esso, quindi fondò la Keracol e iniziò la produzione di adesivi per la posa della ceramica. Quindi essenzialmente all'inizio era i collanti che servono per posare le piastrelle, una cosa molto collegata alle piastrelle ma in un settore diverso, e poi con un'attività che si è allargata a tutto il sistema dell'edilizio. Sì, poi l'azienda è cresciuta, i primi anni ovviamente sono stati terribili, difficilissimi, quindi che solo il fondatore sa quanto è stato difficile. Diciamo che io sono entrato insieme ai miei fratelli Fabio ed Emilia, sono ormai 21 anni che faccio questo mestiere, io ho 43 anni, quindi diciamo ho iniziato molto presto. Io credo che ogni generazione debba conquistarsi e meritarsi l'azienda, a maggior ragione se l'azienda è stata fondata dal padre, quindi niente di scontato, niente di dovuto, anzi la ferma convinzione dall'inizio che se avessi capito che non era quello il mio mestiere, sicuramente avrei cercato fortuna o la mia strada da un'altra parte, perché comunque sono convinto che ogni persona nasce con un talento, quindi con una predisposizione e lavoro. Io credo che poi sia anche un po' il segreto della felicità, quella di cercare di fare un mestiere per cui si è portati, di conseguenza una persona sarà soddisfatto, lo farà bene, lo farà con il sorriso e di conseguenza sarà una persona felice. Beh, il sorriso è una cosa importante anche negli affari. Lei appunto diceva che con tre fratelli ha preso in mano l'azienda, andate d'accordo? Sì, andiamo d'accordo, fortunatamente siamo molto diversi come carattere, ci completiamo e ci compensiamo e ognuno ha trovato la sua collocazione all'interno dell'azienda, quindi con pochissime sovrapposizioni e molti momenti di confronto, e questo credo che sia una grande fortuna e anche un vantaggio e una forza in più che l'azienda ha sicuramente. Ecco, poi forse quando gli affari vanno bene è anche più facile andare d'accordo, in fondo la vostra azienda è riuscita a crescere, se non sbaglio, anche nel 2009, un anno orribile per l'economia mondiale. Sì, siamo riusciti a crescere, il dato che di quale siamo più orgogliosi è che l'anno scorso, quindi nel 2009, il numero dei collaboratori è cresciuto circa del 7%, quindi siamo a quasi 1200 unità. E quindi anche in un momento di grandissima sofferenza, di grande difficoltà, noi abbiamo continuato a creare occupazione. Questo è veramente la cosa che ci rende più felici, anche perché comunque fare l'imprenditore vuol dire avere anche è sicuramente una grande responsabilità sociale verso i collaboratori, verso le famiglie dei collaboratori, perché poi direttamente c'è la famiglia, i figli, quindi si parla di diverse migliaia di persone, e qui ovviamente la responsabilità dell'imprenditore deve essere sempre molto forte. Forse va ricordato che lei, come imprenditore, ha vinto per due volte, nel 2007 e nel 2008, il premio dell'imprenditore dell'anno, prima volta nel 2007 nella categoria Innovation, con la motivazione per il costante impegno nella formulazione di prodotti innovativi e il progresso continuo nella ricerca scientifica. Nel 2008 è stato addirittura vincitore nazionale del premio, appunto, l'imprenditore dell'anno, di cui è partner peraltro anche il Sole 24 Ore, per essere riuscito a trasformare Caracol da azienda leader in Italia, da azienda italiana forte in Europa e poi un gruppo europeo. Ecco, concludendo questa prima parte, voi siete presenti in quali paesi? Siamo presenti direttamente, noi abbiamo 9 siti produttivi in Europa, quindi a parte quelli italiani in Spagna, in Polonia, in Grecia, abbiamo inaugurato poco un anno e mezzo fa l'ultimo stabilimento ancora in Spagna, abbiamo 12 società in Francia, in Inghilterra, in Croazia, in Romania, in Ungheria. Diciamo che siamo presenti abbastanza capillarmente in tutta Europa, ma questo tengo a precisare che non è la ricerca, non siamo alla ricerca di costi, di bassi costi di manodopera. Noi abbiamo una produzione molto automatizzata, dove il fattore umano, diciamo, ha un'incidenza abbastanza bassa, ma in quanto proprio specifico del nostro settore. I nostri prodotti a distanze dai 700-800 km iniziano a soffrire molto il costo del trasporto, che incide per un 20-25-30%. Ecco, lei ha parlato di costi di trasporto, ne approfittiamo per fermarci un attimo per dare le notizie sul traffico. Incontri. Con queste note di To Build a Home continuiamo il nostro incontro con Gianluca Sghedoni, amministratore delegato della Caracol, un'azienda che ha sede a Sassuolo, che ha 345 milioni di euro di fatturato, specializzata nei prodotti per l'edilizia e nella green economy, di cui parleremo tra poco. Sghedoni, nell'ultima parte del precedente intervento, ha ricordato appunto la dimensione internazionale del gruppo, ha ricordato anche una grande attenzione verso il personale, una grande soddisfazione anche nell'aver fatto crescere il personale anche in un periodo difficile come il 2009, l'inizio di questo 2010, che è stato contrassegnato da una crisi abbastanza forte. Questa politica di apertura, di valorizzazione delle risorse umane è un po' il suo tratto distintivo, Sghedoni? Sì, io sono fermamente convinto che un buon imprenditore debba costantemente migliorare il livello medio delle persone che compongono la sua azienda, quindi io ho sempre dedicato maggior tempo, le mie maggiori risorse proprio nella selezione, nella ricerca e nella selezione delle persone, perché, ripeto, un imprenditore da solo non va da nessuna parte, quindi le aziende sono formate dalle persone, migliori sono le persone, migliori sono le risorse che l'imprenditore ha a disposizione, ma sicuramente l'azienda crescerà. I risultati sono una logica conseguenza del lavoro delle persone. Quindi, ecco, soprattutto in un'azienda in cui, come lei diceva, c'è molta automazione nella realizzazione dei prodotti, è importante anche tutto il contorno, tutta l'organizzazione, la logistica, la ricerca e lo sviluppo. Puntate molto sulla ricerca e sviluppo. Sì, noi sulla ricerca, diciamo che una delle nostre principali attività, insieme alla formazione, investiamo circa il 5% del nostro fatturato in ricerca e oltre il 3% in formazione e sviluppo. Tra l'altro inaugureremo primi mesi del 2011 del prossimo anno il nostro nuovo Green Lab, che è il nostro nuovo centro di ricerca proprio qui a Sassuolo, che includerà 9 laboratori per una superficie di oltre 7.000 metri quadrati, un investimento di oltre 14 milioni di euro. E sarà il primo centro in Italia interamente progettato e costruito con tecnologie verdi, quindi dal solare termico al materiali naturali, dalla geotermia al recupero dell'acqua piovana, tutta una serie di tecnologie verdi. E ci tengo a sottolineare, da produttori italiani, perché in Italia ci sono delle ottime aziende che hanno tecnologie verdi e che hanno dei prodotti tecnologicamente all'avanguardia, e vogliamo dimostrare che con questo centro, che una nuova edilizia, un'edilizia verde si può fare a dei costi sostenibili e che si può ammortizzare in pochissimo tempo. Quindi si può costruire verde già adesso, non come ci vogliono far credere in tanti, che sono tutti progetti che debbono per forza di cose riguardare probabilmente i nostri figli al 2020, al 2025, al 2030, ma tecnologie sono disponibili, forse manca un po' di cultura e di volontà. Ecco, voi puntate ad essere il leader mondiale nella green building, ha parlato di una green lab, si parla di green economy, non è solo una moda questo richiamo all'ecologia, alla sostenibilità ambientale, è anche un business a questo punto. Ma noi abbiamo iniziato nel 2000 un percorso molto preciso in questa direzione, quando sinceramente pochi parlavano di green economy, un processo di riconversione, evoluzione aziendale in termini di selezione di materie prime, di fornitori, di ripensare i prodotti in maniera green. Noi abbiamo iniziato tutta una serie di tappe, possiamo ricordarle anche molto velocemente, quella di iniziare a pensare di utilizzare in alcuni nostri prodotti al posto dei solventi tradizionali il solvente più naturale del mondo, cioè l'acqua. Abbiamo iniziato a usare cementi ipoallergenici, abbiamo fatto anche acquisizioni, nel senso che abbiamo acquistato aziende ecologiche che riciclano scarti della produzione di marmo sulle Alpi Appuane, e ad oggi ricicliamo circa, su una produzione globale di 950.000 tonnellate, ne ricicliamo, o meglio, inseriamo prodotti derivanti da riciclo per quasi 200.000 tonnellate. E avete anche attuato, programmato delle iniziative di carattere culturale attorno a questa logica? Sì, perché noi siamo impegnati molto seriamente nella diffusione appunto di questo concetto di green building, cioè di edilizia verde, di bioedilizia, come si dice in Italia. Quindi ovviamente questi processi, queste conoscenze, questa innovazione, questo modo di fare edilizia verde, lo dicevo prima, è disponibile adesso, è accessibile a tutti, non stiamo parlando di prodotti di nicchia, non stiamo parlando di elite, non stiamo parlando di prodotti che necessitano di manodopera o specializzata o chissà che cosa, sono prodotti tradizionali che si utilizzano nei normali tempi e costi di cantiere. Ovviamente noi siamo impegnati in questa operazione culturale di aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda il mondo della progettazione, che è un mondo molto, molto complesso, molto bombardato anche da una miriade di informazioni. Noi cerchiamo di portare un messaggio molto diretto, semplice, chiaro al progettista, e vediamo che in Italia c'è una grande attenzione alla sostenibilità. Uno pensa magari che questi siano così discorsi o attenzioni, sensibilità che hanno altri paesi in Europa, sono nel nord Europa per esempio. Le posso dire che noi siamo stati piacevolmente sorpresi proprio dalla sensibilità e attenzione che gli italiani hanno verso progetti seri, questo sì, verso progetti seri, quando si parla di sostenibilità ambientale o si parla di salute all'interno delle quattro mura domestiche. Ecco, questo vale per la nuova edilizia, ma vale anche per i restauri di antichi monumenti. Voi avete partecipato a restauri come la Reggia di Venaria Reale a Torino, la Basilica di San Marco a Venezia, l'Arena di Verona. Ecco, cosa vuol dire un restauro ecosostenibile? Vuol dire avere tanto una grande cultura e un grande rispetto quando si affrontano restauri di questo tipo, interventi di questo tipo, perché stiamo andando così a mettere le mani su molte volte anche su monumenti, su patrimoni dell'umanità. La Reggia di Venaria che lei citava è patrimonio dell'UNESCO, quindi un grande rispetto e una grande attenzione, anche se qui dovrei tirare un po' le orecchie a qualche sovrintendente che non ha molte volte non ragiona, ecco, in questa direzione. Poi capisco che i fondi siano sempre, non siano mai sufficienti, e quindi ci sia una grande attenzione ai costi, però alcune volte manca proprio quella cultura che servirebbe quando si vuole affrontare seriamente, con prodotti seri, con soluzioni serie, interventi di questo tipo. Ecco. Ecco, lei ha parlato della presenza della Caracol in Europa, in molti paesi. Mi pare che però una delle ultime iniziative sia un po' di là, in India, è vero? Sì, in India, diciamo, è la nostra nuova, l'ultima consociata. Abbiamo aperto questa società per il momento commerciale un paio di anni fa. La nostra previsione sono quelle di, sul mercato indiano, di ovviamente di andare a insediarci poi con una produzione, direi fra 2 o 3 anni, se le cose andranno come sembra che vadano. Il mercato indiano ha delle potenzialità enormi, è uno dei 4 mercati del futuro, ma io sono rientrato proprio un paio di settimane fa da Mumbai. È già un mercato del presente, perché sta crescendo a dei ritmi eccezionali, ci sono dei progetti eccezionali, c'è un'energia nell'aria, pur in grandi difficoltà generali, ma sicuramente sarà uno dei grandi mercati per i prossimi 20 anni. Ecco. E ulteriori prospettive al di là appunto di queste iniziative in India? Siete presenti in Cina? In Cina non siamo presenti per un semplice fatto: noi pensiamo che non ci interessa, diciamo così, inserire delle bandierine sul mappamondo, certo, ma interessa fare dei progetti concreti. Cioè, quindi, fare il passo secondo la gamba. Quindi, esattamente, quindi ci devono essere una serie di condizioni generali, torniamo anche alle risorse umane che parlavamo prima, ci devono essere delle condizioni e anche una consapevolezza che tutto subito non si può fare, quindi un passo dopo l'altro, cercando di fare le cose fatte molto bene, dando una prospettiva di sviluppo alla società, una prospettiva occupazionale, una prospettiva anche economica alla società, che questo vale per tutte le nostre aziende all'estero, si devono devono essere completamente autonome e autosufficienti dal punto di vista finanziario, per poi rifinanziare la crescita e gli sviluppi che queste aziende avranno nel mercato interno. Quindi una logica molto precisa imprenditoriale, cercando, ripeto, di fare le cose fatte bene, un passo dopo l'altro, e cercando sempre di esportare la nostra filosofia, che è una filosofia fatta soprattutto prima di valori delle persone e poi di un modo specifico di fare business. Ecco. La qualità, l'immagine, in fondo una realtà italiana. Stiamo purtroppo in conclusione, dobbiamo avere fiducia in un futuro che possa essere una nuova crescita anche per l'economia italiana. Ma io sono sempre stato ottimista, e quindi sono ottimista di natura, questo vuol dire però anche molto realista. Ecco. Credo che l'economia italiana, l'Italia in generale, così un po' abbandonata, non fa parte del nostro DNA la grande industria, quindi il tessuto sia costruito, si sostenga la media piccola impresa, l'Italia e l'italiano. Più giro il mondo, più mi accorgo che noi abbiamo delle caratteristiche veramente uniche, proprio come il genio italico, ecco, il modo di vedere, di fare imprese, di vedere le cose. Quindi io sono sicuramente ottimista, poi sono anche realista. Quest'anno sarà un altro anno molto difficile, delle prospettive a breve credo che e non ce ne siano, però questo credo che sia anche un grande stimolo per gli imprenditori veri, seri, che hanno la consapevolezza che poi in questo momento di incertezza le imprese costruite, sostenute su dei valori importanti, su dei prodotti importanti, sulla creatività, sull'organizzazione, credo che poi avranno sempre futuro. Grazie, ecco, con queste note di ottimismo, direi con note che sono un passo nella direzione giusta per guardare avanti e per avere una prospettiva di crescita, concludiamo questo incontro con Gianluca Sgredoni, amministratore delegato di Kerco, che ringraziamo, a cui facciamo i nostri auguri, buona continuazione dell'estate, buona domenica ai nostri ascoltatori. Ringrazio anche in regia Peter Bascapè, in redazione Anita Panizza. Ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica, dottor Sgredoni, buona domenica a tutti.